è meglio essere cacciati per aver detto qualche verità che restare a prezzo di certi patteggiamenti. Signor Presidente, non tocca a lei licenziarmi. Penso che qualcuno mi accuserà di uso personale del mio programma, che del resto faccio da anni, ma in questo caso per raccontare una storia che va al di là della mia trascurabile persona e che coinvolge un problema fondamentale, quello della libertà di espressione. La situazione oggi in Italia è contraddittoria. Muore la libertà e il fascismo canta vittoria. Non abbiamo capito un cazzo di ciò che insegna la storia. Ancora si parla di patria, di vittoria e gloria. Siamo nel 2006 ma sento eco di ventennio. Altro che nuova era, altro che nuovo millennio. L'unica differenza che coglie l'osservatore è che a comandare ieri c'era un dittatore. Invece oggi c'è un nuovo tipo di sfruttatore. Forse la forma peggiore, parlo dell'imprenditore che decide che entrare in politica è una svolta. Proprio quando la magistratura gli bussa alla porta. Signor Berlusconi qui scataloga procedere, ma lui se ne fotte perché diventa onorevole. Non devi sottostare alle regole del gregge, se sei un fuorilegge, ma sei tu a fare la legge. Un'altra scappatoia perché i soldi da inquisito. Sei lui che cazzo ha fatto? Ha fondato un partito composto da persone di cui rido e che ha dito. Facciamo due nomi? Bondi, Tremonti e Cicchitto. Li vedi cartelloni elettorali nella via? Votate il nano portatore di democrazia, ma contro tutti i principi di un paese democratico. Che l'uomo più ricco di tutti faccia il capo politico. Dobbiamo protestare e ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Dobbiamo protestare, ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Di cuscita. Certo, cosa vuoi anche il nostro culo, per poi fucilarci dopo averci messi al muro. Di una cosa son sicuro, che sarà un gioco assai duro, cercar di restare a galla per garantirsi un futuro. La situazione dà disperazione, fa impressione, la questione è che vedo solo crisi e depressione. Uno stipendio medio oggi non ti dà soddisfazione. I tuoi risparmi si trasformano in un'allucinazione. E loro mangiano e ingrassano in modo a dir poco squallido. Capitanati da un imprenditore stronzo e avido, che manipola a suo piacimento l'informazione, a cominciare dai canali della sua televisione, che raccontano il contrario di ogni cosa che succede. Faziosi leccaculo, un esempio è Emilio Fede. È da un po' che non votavo e me ne sbattevo il cazzo, ma quest'anno lo farò per togliermi da cazzo questo pazzo. Democrazia, no per me demopazia. Un governo che spinge noi giovani alla follia, mandando truppe in Iraq come se fosse uno spot. Ma che vuoi farci, Silvio? Deve leccare di culo a George. Questa è la condizione di un paese ormai malato. Il fascismo è già passato, ma qualcuno l'ha scordato. Credo che abbiate notato, siamo negli Stati Uniti, questa è l'Italia, amici, 51esimo stato. Dobbiamo protestare e ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Dobbiamo protestare e ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Un grande paradosso della nostra società è il nome di una coalizione, Casa delle Libertà. Ma quali libertà? Quelle che si sono presi, impoverendo i ceti già più poveri e indifesi. E chi ieri era solo un benestante proprietario, grazie alle nuove politiche oggi un multimiliardario. Scelte fatte per ampliare il divario sociale, ed intanto l'attenzione per chi non ha soldi sale. Guardo il telegiornale e ci vado a male, ce l'hanno piantato in culo il cuneo fiscale. Ti promettono il cuore dal loro plasso pettorale, ma non farti fregare, solo campagna elettorale. Non voglio una società come quella americana, dove chi è povero muore e regna chi ha la grana, dove puoi sparare a chi vuoi, basta che lo porti in casa. Oggi non è più omicidio, ma legittima difesa. In Italia non puoi avere un tuo punto di vista, se non concordi con loro è perché sei un comunista. Ma io non ci sto ed urlo forte il mio dissenso. Gli italiani incazzatevi in modo profondo e intenso. Ci dobbiamo ribellare a sta gente illiberale, che ci vuole incatenare, ammutolire e impoverire. Per loro l'importante è metterla in culo alla gente, e se piove è tutta colpa del governo precedente. Dobbiamo protestare e ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Dobbiamo protestare e ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Dobbiamo protestare e ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Dobbiamo protestare, ci dobbiamo armare, a noi povera gente ci vogliono affogare. Ho il diritto di insorgere alle armi, se chi mi governa continua a soffocarmi. Allora io mi alzo e se ne vado, e questo resterà come una macchia nella sua carriera professionale. Cazzo ragazzi, l'avete sentito, il Berlusca, c'è come una macchia nella carriera. Minchia che para, oh. Veramente, tantissima para. Ho paura. Ma vaffanculo.